Un altro, un pezzo italiano, sempre da Giamendo. Loro sono Millionaire Blonde. Questi sono proprio bravi, eh. Questi sono bravi, questi. Lascia fare. Capisci a me. Il pezzo si intitola Sulla Terra. Sono Millionaire Blonde con Massimiliano Vado. Non è perché sei Vado. Vai, vai. Dormi. Eh? C'è luce, ma tu dormi. Ha inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni, rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra. Della sveglia sarà ancora insopportabile. Camminerò sopra i fili del telefono, aspettando di cadere un'altra volta nello stesso errore. Che poi non ci siamo andati perché c'era quel medico di mezzo.